L'Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, coazione, conformismo. Prestarsi in qualche modo a contribuire a questa marcescenza è ora il fascismo. Festival sociale delle culture antifasciste. Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno. Bologna, Parco delle Caserme Rosse. Dibattiti, tavoli tematici, mostre, concerti, libri, teatro, fumetti, film, poesie, workshop. Più di 90 eventi. Festival sociale delle culture antifasciste. www.festa-antifa.net. L'occasione per sperimentare nuovi linguaggi, ridisegnare immaginari collettivi, per stimolare la nascita di nuove relazioni, agire nei confronti del fascismo che minaccia il nostro tempo.